Cervella, resta ancora un momento. Ti prego, resta ancora un poco. Lo so perfettamente che tu te ne andrai di nuovo. E sai anche che anche questa volta io non piangerò. Come quando tu mi hai lasciato. Sono io. Sono io che ti ho partorita. Proprio come ho partorito Diego. Ed è per questo motivo che io non posso trattenerti. Adesso ti prego, ti scongiuro. Fermati ancora un momento con me. Io ho bisogno di raccontarti una storia. Lo so benissimo che tu la conosci già questa storia. Ma a me fa bene, sai? Sì, fa bene poterla raccontare. Più io la racconto, più mi sento capace di dipingere ancora qualcosa di buono, sai? Hai ancora un po' di tempo per me. Thank you. aquilone volato fuori dal finestrino giace a terra intatto, come se niente fosse successo. So che mi puoi capire, come adesso io capisco te, Chavela. Non sé che tienen las flores, llorona, las flores del campo santo. Non sé che tienen las flores, llorona, las flores del campo santo, que cuando las mueve el viento, llorona, parece que está llorando, que cuando las mueve el viento, llorona, parece que está llorando. Ay, de mi llorona, llorona, llorona, de un campo lirio. Ay, de mi llorona, llorona, llorona, de un campo lirio. Adesso, adesso ho solo voglia di dormire, amica mia, dormire, dormire, dormire e dimenticare, dormire e creare, dormire e viaggiare.

in modo, devo dire, molto molto molto casuale, nel senso che avevamo questo progetto di fare uno spettacolo su Chiavenna Vargas in realtà e non su Frida Kahlo, e poi costruendolo durante le prove io ho cominciato a raccogliere il materiale con l'autrice Valeria Moretti, e allora da lì è venuto fuori questo rapporto che c'era tra Chiavenna Vargas e Frida Kahlo, e è venuto fuori questa idea di metterle assieme questi due personaggi, e quindi da lì poi è nato questo lavoro di comporre una parte recitata Frida Kahlo e una parte cantata Chiavenna Vargas, mescolando poi parti del diario di Frida Kahlo, parti delle memorie di Chiavenna Vargas. Insomma, diciamo che è stato costruito in modo un po' fortunato, ecco, questo sicuramente fortunato. Rispetto a questo rapporto tra le due donne e al contesto in cui hanno vissuto, su cosa avete voluto centrarvi? L'idea era quella di due persone che si sono molto amate come emozioni, perché poi la loro amicizia e relazione è durata tutta la vita, ma in realtà materialmente si è consumata in poco tempo, nel quale hanno anche vissuto assieme, perché Chiavenna Vargas è stata a casa di Frida Kahlo quando lei era sposata con Diego Rivera, quindi stavano poi tutti assieme. Insomma, era un'epoca strana. La rivoluzione messicana era stata rivoluzionaria su tantissime cose. E quindi no, in realtà è stata un'emozione fortissima loro, perché poi la racconta in parte Frida Kahlo, ma poi l'ha raccontata anche in tarda età Chiavenna Vargas, che poi ha vissuto fino a oltre 90 anni, quindi è andata ben oltre, e in tarda età ha cominciato a raccontare alcune cose di queste sue vicende giovanili. Che cosa hai amato di queste due artiste? All'inizio ero un po' preoccupato, su Frida Kahlo soprattutto, perché conoscevo le opere pittoriche, non conoscevo per niente il diario, ma ero preoccupato perché noi siamo andati in scena in un momento in cui era già da qualche anno che se ne erano viste gli spettacoli su Frida Kahlo, se ne erano visti moltissimi e non sempre di grandissimo livello, per cui ero un po' preoccupato che fosse un argomento che avesse un po' stancato il pubblico, che fosse stato un po' abusato, e poi in realtà lavorandoci sopra io credo che il diario che lascia Frida Kahlo sia, cioè, ogni pagina c'è un pensiero fulminante, folgorante, un'intuizione, un'immagine poetica che forse vanno anche oltre le sue capacità pittoriche, che sono enormi. Quindi a me mi ha veramente colpito dopo. All'inizio ero un po' diffidente sull'argomento, poi Chiavenna Vargas, le canzoni e le sue interpretazioni sono bellissime, insomma, ha proprio un modo suo di esprimersi, e credo che nel film che hanno fatto su Frida Kahlo, il pezzo dove c'è lei, proprio lei che interpreta la Llorona, un frammento della Llorona, sia proprio la sua cifra poetica e espressiva. Mm-hmm. Ecco. È uno spettacolo che miscela recitazione, musica e proiezioni. Mi piaceva lavorare con le immagini, ma in un modo un po' leggero, non fare la solita cosa con i percorsi filologici. Infatti ho chiesto a Caterina Botti, che mi ha fatto i video, io ho detto: guarda, fammi un video iniziale che mi racconti un po' delle opere di cui si parla nello spettacolo, che sia come un'immagine che ti resti dentro così come frammento per il resto dello spettacolo, ma senza che diventi una cosa mai didascalica, non nulla. E poi a un certo punto, siccome abbiamo in scena un chitarrista straordinario, Matteo Bottini, insieme a Eleonora Tosto che canta e Francesca Bianco che recita, ho detto: vabbè, costruisci tu un pezzo, crea tu un pezzo per accompagnare le immagini della vita di queste due donne. E quindi c'è un altro piccolo frammento video, ma non volevo che fosse una cosa invasiva. Lo dico perché mi piace come idea, perché almeno me ne raccontavo una volta di aver fatto uno spettacolo facendo vedere la scenografia meravigliosa e poi chiudendo il sipario e recitando davanti al sipario. Per cui mi sembra che delle volte l'immagine che ti resta dentro, se è un frammento, è forse più